difensore o processore, insomma, se quella lì non ha né una né l'altra, né M, cioè ce l'ha ma non agisce, è per quello che non spinge. È come che stai usando un microfono normale, capito? Tutto qua. Vabbè, avanti Roberto. Ehi, allora, cacchio, Giuseppe Tanca lo conosco amico bene, è amico mio, non manca, infatti agli tu, le pescherie sono Tanca, c'è anche a Prunizzetta, su cos'è, via Gurizia, prima di arrivare al viadotto, salendo, c'è la cosa, la pescheria, ne aveva altre, non sapevo che era il suo di lì, e c'aveva il coso frigo di lì, c'è il frigo, cacchio, si è bruciato i chibi, speriamo che non ci sia materiale, ha fatto un bel di danno. No, era dismesso già da tempo che sappia io. Io, però ti ripeto, ora non so se era suo, ma non penso, non lo so, io so che quando lui era in attività piena, adesso ne ha mollato tantissime, in piena attività e soprattutto quando aveva i supermercati non a Isa, le pescherie lì, aveva lì le celle frigo, ce n'erano tantissime, ce ne erano 4-5, ma enormi, grandissime, quindi tu pensa, se andate a cortocircuito qualche cella, oppure non lo so, non mi posso esprimere io, non sono all'altezza, ma dico, se andate in cortocircuito qualche cella e a bruciare tutto, lì c'è un bel di resina, le celle sono come sono fatte, no? Quindi quel fumo nero, mamma mia, per carità, già le fatte resina, e poi c'erano anche gli uffici, c'era la casa con gli uffici, quindi danno ne ha fatto parecchio, boh, non so, vabbè. Vedremo cosa dice il telegiornale stasera, Vidiolina stasera, insomma oggi giornata di incendi. Massimiliano, ho sentito per telefono al titolare della concessionaria proprio all'ora di pranzo, mi ha detto che non sa più da che parte sbattersi, alla fine se ne va da richiudere, cosa vuoi ti dica? Non lo so. Ma io secondo me non è che conviene chiudere. Però magari quelle macchine fuori, visto che il posto non è suo, magari se le tiene nel posto suo, secondo me, ti ripeto, quello è qualche rispetto. Magari le sta lasciando lì fuori e non le può lasciare, capito? Tutto qua. Va bene, va. Riprendi Daniele, c'è Luca, vai Daniele, riprendi. Daniele, è sparito, Luca. Ehi. E comunque poco fa hai chiesto come stavi uscendo, lo stavi uscendo bene. Un casino, incendi, guidato, poi il brutto è anche quello che incendiano la macchina, ma uno li sembra andare al lavoro, un casino, vabbè adesso si è calmata la cosa di incendiare le macchine, per esempio vicino a casa ne hanno incendiato una ragazza tranquilla, un Mercedes, incendiato, sì, vabbè poi non lo so, vabbè problemi loro, se no a me non mi interessa, te sai che non forza nulla a me. Claudio, l'MC60, ma hai aperto l'AI, sì? Vero? No, aperto nel senso sotto, sì, qualche volta per sistemare, oddio, una parola grossa, dare un pochino di spray a quell'interruttore che c'è, che ogni tanto va in tilt, proprio quell'interruttore che ti consente di amplificare il microfono, capito? Ogni tanto quello va in tilt, fallo andare avanti e indietro, che non sia quello inchiodato, non sta amplificando, non lo so Dani. Ecco, ma nel tuo cosa c'è? Il vano batterie per due batterie? Anche il tuo ce l'ha così. Tutti gli MC60 ce l'hanno, non ti venga intenzione di mettere batterie. Quella serie batterie serve solo, esclusivamente, per usare l'MC60 con radio HF che non hanno gli 8 volts, ok? Che non sono alimentate dalla radio, va bene? Ok, perfetto, meglio saperla questa cosa. Non fare come ha fatto una persona una volta, che appunto ha bruciato, oddio, ha fatto danno al microfono perché ha sovralimentato. Capito? Quindi non lo toccare, quella serie batterie serve se tu vuoi usare l'MC60, lo vuoi usare in un baracchino, ti fai la connessione a 4 e lo usi in un baracchino, ok, e ci metti le batterie, ecco lì che c'è un microfono per amplificato da tavolo, capito? Ma quando lo usi con le radio che hanno le 8 pin, a 8, uno alimenta il microfono, ricordatelo sempre, avanti a chi tocca. Mi dicendo io, dai. Stavo dicendo, ma le macchine che hanno bruciato erano all'interno dove c'era prima Truni di lì dentro, oppure prima nella via principale degli punti su marciapiede, diciamo? Tre di ieri notte li erano bruciate fuori, la settimana scorsa ne hanno bruciato tre e poi ha danneggiato anche una quarta, gli erano fatto dentro. No, Cla, sempre fuori. Dentro mi ha detto a me, e cosa mi seguo? Lui mi ha detto ci seguizzando, io manco ci sono andato a vedere. Manco nulla, né la prima volta né adesso nulla. Mi ha detto, mi hanno bruciato tre più una che ha danneggiato anche all'interno. No, sai perché ne sono certo, Cla. Ti ricordi la mattina sono andato a cercare la macchina per Babbo? Bruciate ed erano fuori, nello stesso punto dove hanno bruciato le altre. Capito? Di fuori non sono sul marciapiede. E sono in uno spazio che, vabbè, lì prima c'era un negozio, vendevano scaldabagni, serrande, cose del genere, capito? Però magari lì sono le robasuia e lui sta appoggiando lì momentaneamente. No, io sto dicendo qui, poi non so cosa sia. Vai, Roberto. No, Roberto ti ha squillato il telefono un attimino a letto. E allora il cazzo è proprio... Senza il gabbo, cioè te l'hanno fatto la prima volta, stai usufruendo di un posto che non è tuo, devo dire da lì, no? Che cazzo le torni a mettere e te le do una brucia. Non lo sapevo, Massimiliano, non lo sapevo, lui mi ha detto così, forse stava riferendo magari in diera prima, perché anche a Predanieta è successa la stessa cosa, però all'interno, sicuramente ho capito male io. Va bene, va, vede lui quello che vuole fare. Ah, mi dispiace perché è una persona che conosco, io avevo preso la 600 lì, lo sai, no? L'aveva fatto avere lui, l'ha cobrato proprio, capito? Quindi mi dispiace anche perché si è trasferito da poco, sta lavorando tantissimo, evidentemente sta dando fastidio, non lo so, però chiaramente non possiamo metterci in mezzo a queste cose, sarà la giustizia a capire cosa sta succedendo. Avanti, Daniele. Ecchimi, sono tornato, mi avete chiamato prima, mi sono assentato un attimo che c'avevo una bassa. Ci ho rialzato anche io. Allora, ripresi tu, roba che ti arriva un certo Massimiliano, noi. Mi ero allontanato un attimo, non rispondere al telefono. Daniele, Danilo, ma tu sei portatore sulla Predanieta? Sempre giù a Predanieta. Perché ho chiamato, ultimamente, chiedo informazioni e non... ti richiamo, fanno, stamattina ho parlato con Cristina, per farmi sapere, Ducato, delle 35-10, qualcosa ci avete del frontale? Frontale, che cosa ti occorre? Cofano, rivestimento, lossatura anteriore, faro, paraurti e griglia. Perché quei pezzi lì si tengono per loro, che ce l'abbiamo anche noi quello lì. Boh, non lo so se c'è qualcos'altro in più, devo chiedere. Infatti, mi ha detto, lo so che ce l'avete anche voi, Lorenzo viene sempre con quello a ritirare il materiale. E poi quel traliccetto che fine ha fatto? Te l'ha fatto il prezzo? No, non me l'ha ancora fatto. Ehi, aspetta, questo fine settimana glielo chiedo. Mi ero finta che dimentichi di io. Perché da poco glielo ho chiesto e mi ha detto, aspetta un attimino che ho altre cose per la testa. Gli ho detto, va bene, no. Quando c'è tempo dimmelo. Ok, va bene. Se ce ne dimenticato, pure io. Scusate il monopolio, dai. Infatti fare, ma chi te lo fa il prezzo? Marzianino o Grazia? No, Luciano. Ah, vabbè, quello ce l'hanno giù nel portatore, giallo. Ok, vai Massimiliano, scusate il monopolio. Sì, non ti preoccupare. Ascolta, Dani, riprova quel 60. Aspetta che mi sto rimettendo le viti sotto. Ok, là, va bene. Vai, Daniel. Gava. Dai, riprendete voi che mi ha sentito due minuti e devo fare una telefonata urgente. Dai, vai, Claudio. Ehi, Massimiliano. Ma anche Daniele non sta spingendo, non mi perde sui microfoni. Mamma mia, speriamo che non ti arriva l'altro, esci meglio. Sei il cupo di modulazione, cazzo, una gaggata alle 1.80. Non mi è mai piaciuto a me. Tanti non avevamo provato, ma ci immediati in ammetti. Mamma mia, lascia perdere. Questa è una cosa allucinante. Il microfono costava una barca di soldi, assieme alle MC85, guarda, una cagata, io lo compravo, lo provavo, perché effettivamente era anche bellino. E proprio quindi io mi vedevo di l'oro 60, alla fine ho detto basta, non compro più, mi tengo il 60 e mamma mia. E anzi io ero uno dei pochi che riusciva a farlo andare, forse la mia modulazione riusciva a darle un po' più di spinta, ma guarda Daniele, è cupo, in passato no, già è chiara la modulazione, però non mi piace, non spinge, Avanti, Luca, ancora ci sei? Sì, sono qua. Ehi, poi Massimiliano ci si sta spingendo bene sempre questo. Avanti, Roberto. mia, no, tanto già spegne. Il 60 mio, che conosci benissimo tu, là, non ce n'è neanche uno uguale, perché il mio non ha né vanno batterie e né interruttore, è senza di nulla. Ricordi che poi avevamo avuto una discussione, che tra l'altro mi hai dato tu questo qua, ti ricordo che avevamo fatto scambio. Non ha né vanno batterie e né interruttore, c'ha soltanto il cambio di impedenza sopra e bu. E io non ne ho mai visto uguale al mio. Perché quello lì è il primo modello che hanno fatto, praticamente. Anziché avere l'interruttore sotto, vabbè, però è amplificato lo stesso, anziché avere l'interruttore che inserisce e disinserisce la preamplificazione, cioè direttamente l'alimentazione è diretta dalla radio al circuito di preamplificazione con l'8-pin, capito? È amplificato lo stesso, puoi solo cambiare l'impedenza ma non puoi usare come un microfono normale. Se io invece voglio disinserirlo, lo disinserisco e lo uso senza preamplificazione, capito? Però quello è preamplificato, quello è il primo modello che avevano fatto. Però va bene lo stesso, per carità, ma ce ne sono certi che sono veramente una cosa allucinante. Ne ho sentito tantissimi, infatti mi ha chiamato anche un produttore, se da poco, ho detto, ma l'NC60 mio non funziona. Io c'ho il tiga, se non funziona, non lo so, l'ho comprato così, non amplifica, non fa, sarà bruciato, io c'ho questi tiga, perché a volte si mettono a toccare a fare, magari è partito qualche componente del circuito di preamplificazione e quindi non agisce, ma non è detto che io qua ce l'ho anni, ne ho avuto tantissimi, questo forse è uno dei più vecchi che ho, questo che sto usando, non mi ha mai creato problemi, perché sono dei microfoni che se tu non tocchi funzionano bene, se poi il demone appaticcia, e allora è un casino, capito? Avanti Massimi. Ehi, aspetta, chi è che vuole entrare? Dimmi, come sta uscendo, che l'ho ripiazzato? Adesso è meglio di prima. Meglio come? Non sta più fischiando? No, prima è proprio gracchiante, soffiato, come te lo vuoi chiamare. Adesso è un microfono normale, ti ascolto bene, ma ti ripeto, non è che abbia questa grande spinta, va. Quindi dici che esco meglio con l'originale? Manco a paragone. Danilo, dimmi tu. Sono Roberto, prova a mettere in presenza per curiosità a cambiare da 500 a aumentargliela. Passo sulla 50K. Al massimo l'hai messo. Passo invece sulla 500. Scusa, ma tu a quanto ce l'avevi prima, 500 o a 50? Così com'è c'è a 500. E prova a fare il contrario. Adesso invece a 50, come era poco fa, già dall'inizio. Sanamente non cambia niente, prizzi giù. No, Roberto, già cambia, così è più forte. Ma neanche quasi, neanche si sente, dovrebbe cambiare parecchio. Va bene, ma siccome lui è vicino a me, io già la sento differenza. Però preferisco sempre con il suo microfono originale. Lì ci metti gli Adonis, che puoi montare tre radio diverse, ci hanno tre possibilità di microfono. Ti metti la V908, ti puoi attaccare tre radio, Icomo, Yaesu o Kenwood. C'ha la commutazione, c'ha tre uscite e ti scegli quello che vuoi tu, senza bisogno di passare di dire. Ecchime! Sì, ha ragione Roberto, e oltretutto quell'Adonis c'ha anche il compressore, visto che quella radio non ha il processore, invece mettendo quel microfono c'ha il compressore e quindi dovrebbe spingere bene. Già, lui è una bomba, poi c'ha l'equalizzatore pure, puoi fare tutto quello che vuoi, è molto difficile da regolare, però una volta che lo regoli è una bestia. Ragazzi, scusate, riprendo io che sto chiudendo, sto andando a prendere la signora, dai, ci sentiamo dopo alle prossime se coincide. Daniele, scusa un attimo. Dimmi Robert. Lo sai cosa mi hanno portato l'officina? Aspetta, te la faccio vedere. Un Land Rover del 63, guida a destra, se lo vedi, ridicolo. Rispondo al telefono, scusate un attimo. Ci sentiamo, dai, io sono qua, a dopo. Ehi ragazzi, dai, salutoni circolari a tutti, alla prossima se coincide. Ciao Daniele, alla prossima. Poi domani si arriva, vediamo già cosa ne c'è fuori, perché questo sì, ti ho sentito qua, questo non spinge una bella mazza. Guardami, adesso così un attimo attaccato, allora l'LC inizia a spingere. Ma sei cupo, sei tutto impazzato Daniele, non mi piace, non mi è mai piaciuto a me l'80. Capito? Non mi è mai piaciuto, ti dico che ne ho avuto tantissime, ma le ho sempre date perché non mi piace come modulazione. È un microfono un po' strano. Vabbè, comunque quando arrivo a 60 poi lo proviamo. Oh, ciao, buona serata e buon tutto. Ma ci vediamo, tu che la stai usando? No, negativo, sto usando il Galaxy. Perché? Me ne sono accorto. Perché? Per forza te ne sei accorto. Ma che pigli di più? Vabbè, pazienza. Anzi, mi guarda. No, te lo metto un pochino, forse è troppo così, guarda. No, sembra che non ti abbiamo più rilanciato. Non ci sono problemi, già non mi offendo io. Già sono qua, vi ascolto. Comunque là, sono tutti numeri bloccati quelli. Di persone che è bloccato? Gli ho bisogno di inchibi. Che tanto mi dicono, gli ho bloccato la bobo. Bloccato da poco, proprio. Da poco, perché ho scoperto alcune cose di falsità e di ipocrisia, di goge, proprio di infamati. E allora ci bloccato e cancellato, vai in picca di vai. La gente che pensi ti voglia bene, cazzo te la mette in culo, manco te ne accorci. Avanti, e Dani, riprendi. E a voglia. Anche nelle altre bande di questa radio è solamente in 27 la M che non agisce il compressore. Lo so, molte radio sono così, soprattutto molte della IAES sono così, Dani, capito? Lo so, però è un vero peccato, perché non riesco a capire io queste aziende fanno le radio, come fai il compressore, fallo agire in tutte le bande, no? Fallo agire da 0 a 30. Cazzo, 27 sono molte radio, tipo la IAESO, che il compressore non agisce in AM. Capito? Quindi, vabbè, l'unica era Gameboy, l'ha fatto tutti, complete di tutto, sia in AM, in FM, in SSB, alla grande, soprattutto lì che mi dice 10, 430, 140, 70, 440, 940, ma tutte sono così, tutte complete, molti, vabbè. Ognuno fa quello che vuole, è già lui che ti dica. Avanti, Massimiliano. Ehi, aspetta un secondino che cambio radio, là. No, io ce l'ho a fianco, è acceso il Galaxy, però preferisco andare con questa. La facciamo andare un pochino, dai, mi mancava da un po', da quando ho lavorato i 140 e 440, praticamente ho spedito subito questa e sono rimasto senza K. Adesso che ce l'ho me la godo, dai, poi intanto fra un po' la dovrò staccare e mettere da parte, perché devo tirare sui cavi e staccare le antenne. Oh, avanti Robert, riprendi, io tra un po' però vi lascio, mi allontano dalla radio, lascio tutto acceso perché mia moglie è andata, è uscita con mia figlia, io devo ancora sistemare la cucina e preparare la cena. Sì, sono stato al telefono, sto aspettando, mi richiami mia figlia, quando arriva, dai, rimango anche io qualche minutino, ma no, 4.30 esce, l'unica fregatura lo sai cos'è, claro. Tu mi dai, non te ne ha fatti nuda, che c'ha poche memorie, boh, solo quello è il difetto, però ricevitore ottimo, modulazione eccellente, il 4.30. Guarda, c'era Marco poco fa che, come ho sempre detto io, l'ha ripetuto lui, ripetuto da lui, sono abbastanza tranquillo e sereno, perché nessuno mi può contraddire, ma il 430 come dice il trasmettitore superiore al 440, non ha niente a che fare col 440, ha delle cose in meno perché è uscito prima del 440, come le memorie, non ha l'accordatore, ma come dice il trasmettitore manca paragone col 440, e non lo dico solo io, lo dicono persone che conoscono molto bene il radio. Avanti Massimiliano. Positivo, va bene, io ho cambiato, era giusto ferma qualche giorno questo. Ehi, stanno bene, però gli angeli non presi, perché mi ha dato innesca di serraggio. Sempre da te c'è questo innesco, non capisco perché. Vabbè. Avanti, Dani. No, niente, mi sto oscillando a mettere a posto qualcosina qua. Mi faccio dare un casino niente. Se l'altro giorno ho fatto il test per le batterie al lavoro e ci ho detto mettere le scatole qua in mezzo ai piedi. Ah, il tizio che c'ho goccia gli ho detto, ma io ho detto il rumore. La ventola si è accesa, già era un giorno non sentivo la ventola in funzione di tal radio. Bene mera. Ia. Va bene, comunque così, Robè. Io va bene. Dai, io ragazzi vi saluto per il momento, mi allontano dalla radio, vi ascolto volentieri. Se posso intervenire intervengo, ma mi devo spostare in cucina. Ok? Il cambio per Luca. Vai Luca. Dai, riprendo io, dai, che anche io devo staccare, dai. Ciao Claudio, buon proseguo, grazie di serata, ciao Massimiliano, ciao Danilo, Daniele, no, forse Daniele è andato via, Luca e tutti gli eventuali qua amici sul 10. QRT da parte mia, ciao ciao, buon proseguo. Ciao, ciao Roberto. Riprendo io. No, lo sai cos'era Claudio, avevo il telefonino vicino al microfono, ecco perché mi è scatto. Va bene, ciao Claudio, ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime, no? Dai, vai. Ok, no, mi sa che chiudo anch'io adesso, così sto un pochino il soggiorno con mia figata, che la becco un po' che è nuda. Dai, ci sentiamo un altro momento, da. Alle prossime, ciao a tutti. Anda me, ok, allora chiudo anche io, molla uno, molla di tutti. Ciao, alle prossime, ciao ciao. Ciao, ciao Dani, no, io me ne allontanare Massimiliano, non è che sto chiudendo. Dovrebbe allontanare, se eravate in più magari ogni tanto intervenivo, ma dovrebbe allontanare perché mi ha lasciato delle cose da fare Anna, quindi devo sistemare la quella risetta e mezzo, devo buttare organi, quindi sono già risetta e mezzo, ma sono qua io, sono in ascolto, va bene, ci aggiorniamo dopo Massimiliano. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Capito, tutti spariti siete. C'è Massimiliano, pensi, io mi sto allontanando che devo fare cose in cucina. Ho detto, ma questa è una chitarra elettrica. Ah, cosa chitarra elettrica? Era classica, normale. Sente bene perché? Ma è una chitarra elettrica. Dai, prova a vedere se c'è Massimiliano, io mi devo allontanare lui, già ci sentiamo dopo. Sì, Massimiliano ci sei. Vabbè, pongo la porta, però. Ogni tanto già la prendo, ma fai due, tre. le dita. Perché non sei abituato, non hai calde nelle dita. Come si sentiva quella canzone? Bene, di lusso. Bene. Ok. Ma questo era un video che stavo ascoltando. Mi sembra che ti sia mandato di tuo fratello, giusto? Video non te l'ho mandato io. Come no? Ma l'hai mandato, aspetta. Stava cantando il giorno di Natale, quello di Natale. Ah, quello è già un anno fa. No, ma queste sono nuove, sono dei video che ha fatto da poco. Ho capito. Ho preso un calcino dopo. Per carità. Prova carità. Allora. Facciamo di gente, Daniele, c'era Danilo, c'era Claudio, c'era Massimiliano, ma come dire, tutti i paradiso. Sì, già ho sentito. E vabbè, vuol dire, devo fare qualcosa. Mi si butta su una chitarra, fammi qualche accordo. C'è il cane che ha paura. Senti più bene. Cosa è questa tu? Tu devi avere questa la canzone. Sempre un video. Canzone di Giovanni del Giorno. Sono qua a luglio, sono in cucina, sto facendo cose, sono qua comunque. Quindi musica, buoniti. Sì. Più quella lì. Sì, ok, là, va bene. Proprio quella. Ehi. Andiamo bene. Ehi, vabbè. Mi ha dato, ve ne una, dove va? E lì c'è cosa, e c'è a vedere cosa è lì. Thank you. realtà non l'abbia mai sentito. Ehi. Sì, dai, facciamo la metà a posto. Non volevo stare stato, non ho più gambo, mi mangio di mangiare pizza, però non mi piace il suono che ha. Allora ho deciso di comprarmene una. Adesso vediamo, là. Una amplificata. Vediamo degli amici che sono molto bravi, sono la chitarra, ogni tanto mai se capita che sono qualche circolo che stanno suonando, dico se mi fanno separare pure a me, perché suonare questa, suonarne una amplificata è un'altra cosa. Perché non ce l'hai tu la chitarra amplificata? No, come comprai, guarda, sono la mancata, è costicchia, cioè sono da 350, da 400 euro, da 500, da 1000, da 2000, da 3000, da 5000, la vuoi tu, più buona e più la paghi. Quello pensavo dici con l'amplificata. Vabbè, va bene. Avanti Giulio. Io. Vabbè, ho la voce bassa. Ogni volta mi piglia un cibo. Ma sai come tanti a me, se tu noti quando io farlo, mi gracchia, non lo faccio quando canto. Come canto la canzone, forse magari perché non riesco a cantare col diaframma e mi butti e poi domani sto male, c'ho questa voce un po' strana, però lo fa, e adesso a fumare non fumo, vabbè, là c'ho il marito di una tipa che ha un circolo vicino, vabbè, qua giù al monte, là. Praticamente l'hanno operato, gli è sparita la voce di morto, questo signore fuma, quando ti sigaretta la giorno fuma. Abbiamo fatto un controllo, abbiamo trovato un tumore maligno alla gola, infatti adesso gli devono fare lo svuotamento, poveraccio, e devono fare il buco, e se quando deve parlare parla con la macchinetta adesso. Sono problemi. A me ogni tanto mi piglia così, questo abbassamento di voce, se invece parlo continuamente allora mi si schiarisce bene e non succede niente. Però se sono ad esempio una mattina come oggi, ad esempio oggi mi stavo facendo un lavoro in bottega per casa ed ero da solo, dunque non ho potuto parlare con nessuno, quando rientro o forse perché ero disidratato, cosa ne so, alcuna avevo la voce bassa, non so cosa dirti. Vabbè, ma da un po' di tempo, da quando sto facendo questa terapia, ho sempre la voce che mi si abbassa ogni tanto. Buon che tempo magari, hai fatto il controllo, sì? No, questo non c'è, cioè, avevo fatto, ero andato tempo fa, perché avevo di tappe nelle orecchie, mi ha trovato una deviazione nasale, il coso, come si chiama? L'otorino, una deviazione nasale mi ha trovato. Non so come vai, no, ho sbagliato un colpi, ma io non mi ha, perciò non capisco come vai, Ma io se ci sono un po', ci ho deviato lo stesso, io ho preso una pallonata, ne ho preso tante al naso, in più una testata giocando, poi non ci sono mai andato all'ospedale, e infatti io ce l'ho deviato, infatti mi si tappa sempre, forse per via della deviazione, non lo so, ce l'ho sempre tappato, ma non male c'ho lo spray. Meno male c'ho questo spray, esiste, sennò guai, un casino, perché la notte quello sta a dormire, perché ti spiego la bocca, ti si asciuga la bocca, un casino. Sto facendo queste visite e poi mi vado a farmi controllare se si può fare qualcosa, e se no dovrò rincorrere al chirurgo plastico. Cazzo, mi sa che vuoi tornare a 2000 euro a ponermi la posta un asso. Purtroppo, no, vado a vite di via. Non so proprio cosa dirti, vabbè, io pallonate, giocando a pallone già ne ho preso uno una volta che era spettacolare, proprio in pieno viso. Tu pensa che questo qui ha calciato un certo Gege e mi ha preso proprio in piena faccia, proprio bello, tra la fronte e il naso mi ha preso. Ma tu non ci crederai, dall'aria del rigore mia, il pallone è ritornato nell'aria del rigore della squadra avversaria, al contraccolpo. si può immaginare la sua madre, poi per dare distanza era vicinatissima a me, una cannonata, ma a tutta birra. Ma come non mi ha posato, mi ha fatto fare a capo, ho sentito sì il colpo, ma niente di particolare. Te lo sto dicendo, il contraccolpo, il rimando è arrivato nell'area di porta della squadra avversaria e io il colpo l'ho preso vicino all'area di rigore del mio portiere, dove ero io, perché io giocavo centromediano, giocavo, allora era, c'era il centromediano metodista, ma centrato in pieno. Vabbè. E tu pensavi alla testata che ho preso io, senti che come se fosse oggi. Invece da passare la testa a farmi prendere io fronte, giocandomi, cazzo, sono andato dalla faccia, una piada in pieno. Mi ha preso in pieno, poi me lo sono sempre fregato. Ce l'ho deviato. Infatti mi fa anche male. Noi adesso appena faccio queste visite, mi ritiro le analisi, vado dal medico, glielo dico. Il medico dirà, cazzo c'è molto male proprio, tra questa cosa che mi è uscito, vabbè, in più mal di schiena, ghiddu, calcola la cistifene, ghiddato, ci sono tante cose, tutte le cose messe insieme. Mi dice proprio la rottamata, la parte al rovescio. Sì, giovane ancora, purtroppo è così. Sì. Mio fratello lo stesso giocando a pallone aveva preso una testata testa e testa allo zigomo e gli aveva fratturato lo zigomo, quello che canta, proprio quello, era micidiale, era un centravanti ma era micidiale, giocava, faceva due o tre gol a ogni partita. A un certo momento si faceva un sacco di soldi, perché allora giocava con la squadra anche di Torre Sanna, buonanima, e siccome non si allenava mai, mio fratello difficilmente andava a allenarsi, anche perché lavorava, eccetera, dunque poco tempo. E gli diceva a Torre Sanna, a Torre Sanna, se mi paghi di gol di bozzo, oggi di bozzo due, però mi devi dare 30.000 lire ogni gol. Davvero? Sì. Se tu fai due gol, poi ti do 30.000 lire, allora esisteva la lira. Beh, non solo i bani due, ma di basia tre, basia. E se faceva anche 100 euro, 90 euro in una partita o Luca. Ti credo. Vabbè, non ci puoi fare. Sì, come hai detto prima, sono giovane, ma... Uia, per carità. Quando te ne frega delle cose, purtroppo. Vabbè, dai, qualcosa ce la rimediamo, andiamo piano. Io mi sono sempre fregato, ho avuto sempre paura comunque dell'ospedale, sempre. Poi, vabbè, ci sono andato tante volte, io ho paura del lago. Infatti, i prelievi da poco, ma ci aspetto un po' quando mi arrivano tutti gli esami. Vabbè, no, non sto male, sto bene di salute. A parte mal di schiena, tutto il resto delle cose. Però il medico me li ha fatte fare. E niente. Il 26 devo ritirare, di sabato. Vediamo un po'. Se no. Sempre venne una, non andava. Purtroppo è così. Adesso io domani sera sono in terapia, perciò. Seconda terapia di questo ultimo ciclo che sto facendo adesso. E poi ancora un altro, giovedì prossimo. Domani e poi all'altro giovedì ancora. Finito quello, poi in aprile, l'8 aprile, cistoscopia. Bisogna fare questi controlli. Io devo stare 3 anni in tutto facendo controlli. Speriamo bene, cosa vuoi che ti dica? Ma ho capito, stai facendo ho capito cosa stai facendo giù. E io mi sto curando la vescicola. Domani devo fare le installazioni, si chiamano vescicali. Nel pene ti infilano un tubicino, ti infilano e ti iniettano la medicina dentro. Direttamente, la devo tenere un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, senza andare a urinare, dopodiché posso andare a urinare e come urino brucia in una maniera impressionante, però la devi fare se vuoi cercare di salvare, devi farlo. Mi dura uno o due giorni questo bruciore, soprattutto la notte, ti fa alzare 50 volte per andare in bagno, ma non perché devi urinare, perché senti quel bruciore, e questo bruciore ti dà la sensazione che devi sempre urinare, invece vai in bagno invece non bene, sei vuoto, capito? E poi devo fare domani, poi è giovedì dell'altra settimana, e poi il giorno 8 devo fare la cistoscopia. Ti controllano anche lì con un tubicino, ti infilano sempre dentro il pene, ti infilano e c'è uno schermo tipo televisione, no? E lì controllano l'interno della vescica, tutto lì. Luca, ma tu casino, bel casino, fa male questo tubicino quando lo entra, no? Nell'uretra, giusto? Lo senti, ma il problema è che magari quando fai la cistoscopia, come ti infilano questo tubicino, perché poi non è così tanto sottile, ti graffia e magari dopo che hai finito un paio di goccettine di sangue ti possono uscire, capito? Per cui è anche lì bruciole sempre. Un giorno, due giorni, le bruciole, e va bene così, cosa vuoi tu fare? Lo devi fare, questi controlli li devi fare per forza, per vedere, controllare. Ma anche io, ormai ho 46 anni, no, 47 non ce li ho ancora. Quando arriverò a 47 dirò che avrò 47 anni. Comunque sono entrato nell'anno di fare 47 anni, dai, diciamo. E mi sa che devo fare anche io la vista alla prostata. Sì, dopo i 45 anni deve fare la visita alla prostata perché incomincia ad ingrossarsi quella. E dunque è meglio controllare, ti danno la cura e ti accampare per un bel po' di anni. Poi magari, perché è inevitabile, la prostata si ingrossa sempre. Si ingrossa sempre di più. A un certo momento ti fanno anche l'intervento, te la raschiano, diciamo, dai, te la sottigliano, come dire, capito? Per cui quella è una cosa che succede a tutti gli uomini, soprattutto se uno incomincia a perdere la funzionalità dell'urina, cioè se vai molto spesso in bagno, oppure quando vai a fare la pipì non la fai completa e ti rimane sempre la vescica con un po' di urina dentro, capito? Sono situazioni che purtroppo il problema degli uomini è quello. Lo sai che a me capita, molte volte mi capita che non la faccio, sai, quando tu vai in bagno, non la faccio bene. Sì, vabbè, comunque mi hanno detto, ho fatto la visita per quanto riguarda i calcoli alla cistifenia, no? In più c'ho i calcoli ai reni, mi ha detto la tipa. Infatti ripeto, di bere 2 litri di acqua al giorno, se la fa anche 3. Anche i canibizi, Eva. Sì, la bevono, ma non 3 litri al giorno, come fai? Non ce la faccio. D'estate magari sì, un po' di più, ma d'inverno proprio zero. Qualche bicchiere lo bevo, certo. Lo so, infatti è difficile, anche a me mi dicono di bere sempre molta acqua, almeno 2 litri, mai, al massimo posso arrivare a 1,5 litri, ma non sempre, non tutti i giorni, sì, qualche volta magari lo supero anche 1,5 litri, ma non è così semplice, sembra così, soprattutto d'inverno, d'estate magari sì, d'estate puoi anche berla, 2 litri d'acqua, ma d'inverno stanno quindi, soprattutto quando c'è freddo, ma come fai? Caspita. Vabbè, io una volta, quando ero ricoverato, che mi avevano fatto un intervento, loro ti mettono la sacca, ti mettono, no, e ti dicono beva molto perché devi pulire adesso, no? La sacca si riempiva e naturalmente anche insanguinata, no? Dopo, proprio quello era l'effetto dell'intervento. E una notte addirittura si è stancato anche l'infermiere, dice basta, dice basta bene adesso, ma sempre il dottore mi ha detto di bere continuamente, che un giorno me ne ho bevuto roba di 5 litri, ti puoi immaginare, perché facevi bevendo e scaricando, no? Siccome c'era una busta che raccoglieva la urina, e questa busta quando era piena l'infermiere o gli infermieri te la cambiavano, no? E te la mettevano, te la svuotavano, in poche parole. E tu a bisogno di anni, mezzanotte, mezzo, l'una del mattino, si era anche stancato di stare entrando e uscendo per svuotare la sacca, ti puoi immaginare, sia la mia che di altre persone che c'erano lì con lo stesso problema, no? Perché era tutto un reparto adibito a queste cose, capito? Infatti, vabbè, da. Pensiamo alle cose positive, non te ne giù, lo so, io sono pieno di devo fare controlli contro controlli. Avanti, c'era anche Claudio, qua ci sei. Io sono qua, io sì. Vabbè, lo so, ti capisco giù, io ripeto, io andavo all'ospedale, per me è una noia, lo so, aiutano molto. Vabbè, cosa vuoi fare? Avanti, Claudio, riprendi. Vabbè, ognuno. La sua, purtroppo è così, va bene, anche se non va bene, però bisogna curarsi. KK, non ti voglio dire una cosa, non mi sono inticcato, va bene, non me la metto più, riprendi Giulio, riprendi. Ok, qua, purtroppo è così, non ci puoi fare niente, devi solo avere pazienza e farti curare, basta, tutto lì, e sperare nel bene, niente di, non è che puoi cambiare niente. Comunque, siamo nati per soffrire, ci picchia di cara, questo abbassamento di voce, ma mi mangio una caramella, capito? Ma tu ogni volta che andi fai a media mi viene senza logica, io non ho capito questa cosa. Cosa hai detto? Ho detto che ogni volta che vai in falegna media mi torni senza voce. Perché magari la mattina non ho nemmeno acqua lì, mi sono dimenticato, poi non parli con nessuno e quando ritorno ho sempre un abbassamento di voce. Non so, no, ma me lo faceva già da prima anche, già da qualche annetto, qualche anno, parecchi anni fa, quando rientravo avevo sempre abbassamento di voce, poi pranzavo, bevevo e mi passava tutto, e la sera andavo tutto bene. Indomani di nuovo da capo, uscivo tranquillo da casa e a luna quando arrivavo, forse ero disidratato, cosa ne so, oppure la polvere, non lo so. So solo che mi facevo questo difetto e me lo continuo a fare adesso. Vabbè, avanti Luca. Magari, ma anche a me lo fa ogni tanto. Lo fa anche a me. Cosa più in mezzo e più giù, ma non pensarmi, lo so, è fastidioso. Alla fine. È fastidioso. Oh yeah. Comunque anche a me ogni tanto si sente che io me ne accorgo, quando io mando dei messaggi vocali su WhatsApp me ne accorgo che c'è questo mancamento che mi graffia un po' la gola, non so. Dovevo fare un sacco di controlli, vabbè, tanto ci viene messo per i buchi di paranoi, va rimesso il vaggio di tutto di più, perché l'ho preso comunque sì, avanti là. Lo prendo io, dai, Claudio, deve essere impegnato. Lo so, due, purtroppo così. Vabbè, comunque, la Pasqua si sta avvicinando. Quando è il 5 mi sembra, 4, 5, boh, 3, 4, 5, ci sono quelli i giorni di Pasqua. Poi 29, sempre di aprile, 79 anni, se Dio vuole, capito Luca? E ci siamo, purtroppo sì, tanto la vedo quando vai via 20 anni, la Non è se leggi con la porta, visto che te lo fa ogni volta che vai in falegnameria. Non lo so, non ho mai fatto cose esame di allergia, non l'ho mai fatto, ma non credo, Non lo so, qua. Perché sta passando in voce così? È una cosa bella, fatela. Visto che ha lavorato una vita in falegnameria, per aver deciso l'apporre qualcosa e quindi ti fa questo ti dà questo problema, falla, non ti costa niente, non ti costa niente. E mia figlia sta attiva in continuazione, se stava raffreddore, se stava in nuda, e c'è il bulle, ma ci siamo nel vero, la bulline, ma dov'è dura di un bulle? Ha fatto la prova allergica e il risultato allergica al pelo del gatto, che noi gatti non ne abbiamo, però giù è pieno di gatti, quindi è allergica al pelo del gatto, non del cane, del gatto, una cosa impressionante, ma starnuti, una cosa proprio da... si diventava bianca, non faceva più neanche a respirare, quindi capito, a volte non sappiamo che cos'è, la fai una prova allergica, o si può che sia un problema di polvere, talmente ne hai accumulato tanto che ti crea questo problema. Sì, starnuti già le faccio anch'io, alle volte le faccio anche 5 sigli di seguito, uno dietro l'altro, ma adesso che so io, un giorno, due giorni senza farne, e poi magari il giorno che le faccio anche 3, 4, 5, 6, uno dietro l'altro, proprio. E il naso pulito, mi soffio il naso, non c'è niente, e allora mi passa. Ma diversamente no, continua, se non mi soffio il naso continuano gli starnuti. Eppure il naso pulito, perché io difficilmente faccio molto, in poche parole, sarà per quello, perché ho sempre il naso asciutto, diciamo, dai, sarà quello, non lo so. Invece c'è stato un periodo che ho fatto delle fiale di aerosol e devo dire che sono stato bene per almeno un paio di mesi. Infatti giro quasi stanotte me ne faccio un'altra di quella fiala per 4-5 giorni di seguito, tanto solo l'acqua, non è la medicina, solo l'acqua, praticamente mi scioglie il catarro, mi scioglie, e allora la voce diventa più chiara, capito? Sì, è fenomenale, adesso è fenomenale. No, ma per dirti, cioè mia figlia continuava a dire, papà, è il polline, ma ci siamo d'inverno, qual è il polline? Se mi parli di primavera, d'estate, ma cioè se siamo d'inverno, è cosa calca polline? Sono tutti piridi, alberi, non v'è nulla, non mi sono pianti, non v'è nulla, soprattutto qua. Ogni volta che stava giù a portare il cane, le saliva torrude, perché sono i gatti giù. Ha fatto le prove allergiche, il risultato allergico al pelo del gatto. Quindi, capito, per quello che sto dicendo, tu che hai lavorato in mezzo alla polvere per tanti anni, volarsi pure che ci sia trovata questa allergia e ti crea questo abbassamento di voce. Tutto qua. Avanti, Luca, diamo un altro paio di passaggi e poi vi lasciamo a portare il cane. Ehi, vabbè. Ma lo fa anche a me comunque. Vado ormai a cantare qualche canzone da karaoke, pure domani, devo via. Vabbè, ma poi anche il tempo, dai. Guarda, brutto. Il naso mi si dà qua sempre, non lo so usavo. Ci ho fatto manco controllo e niente. Ci ho sempre questo naso chiuso, come si dice? Meno male che c'è questo spray, anche se dicono fa male questo spray, ma mi aiuta molto, riesco a dormire la notte, no, ciao, mi buona notte, arrivederci. E qui c'è l'emorragia nasale, mio spray, non è che ne puoi approfittarlo tu. Lo so, Clara, da molto, ma crepo. E poi una volta mi si tappa un naso mi piglia l'ansia, respiro male e sto male. Capito, mi sento mi piglia un panico. E con lo spray, che anche se te lo dà il medico, se te lo compri tu, massimo 3 volte al giorno, non fa sempre spruzzare di spray, no? Perché ti rovina le mucose, e poi è un casino, capito? Avanti, Giulio. Sì, beh, sembra un medicinale, te lo credo. Sicuramente, non è che uno non è che ne puoi approfittare, No, ma quelle fiale che sto dicendo io non c'è medicina, è solo l'acqua. Solo l'acqua per inumidire praticamente le vie respiratorie, capito? Con questa macchinetta ti dura 10 minuti, niente di più, 4 ore una fiala, perché non fa altro che fare del vapore, è un vapore, no? Che tu lo respiri, c'è la mascherina, c'è la cosa, come va scaldata l'acqua, va scaldata, e allora questa fase te la respiri e ti inumidisce tutte le vie respiratorie. Ed ecco che a quel punto la voce è bella chiara, proprio forte, eccetera. Però lo dovrei rifare adesso, mi sa che proprio da stanotte inizia di nuovo. L'altro giorno mi ha detto, non te ne fai le fiale, ma tu oggi non le voglio fare. E si è passato da io la guida e non le ho fatto. Adesso quasi quasi incomincio da stanotte. Va bene, dai. Avanti Luca. Lo so, avete tutte le ragioni del mondo, ma purtroppo mi aiuta. Mi si tappa una parte, mi si tappa l'altra, sto male, ma ci vuole ancora, mi sento, sono tranquillo. E dovrò farmi delle visite. Ma ci fate perché dovuto a. Io c'ho questa deviazione, capito? Casino, vediamo un po'. Te ne freghi delle cose. Qualsiasi cosa, te ne frego a te, o voi vai peggiori. Io dovevo andare subito, ma questo mi è successo con un ragazzino, non è che. Ecco perché cazzo mi ritrovo questa tromba di naso, forse anche dalla testata che avevo preso. Non vedo grande, capito? Vabbè. Non è che mi interessi, Se non mi vuole guardare non mi guardi, se no questi buoni la faccia in culo, scusate il termine. Lo so. Io sono andato saranno circa 3 mesi fa dallo Torino, siccome avevo un orecchio tappato che già ci sentivo pochissimo in quell'orecchio, sono andato e mi ha visitato e me ne ha tolto un tappo, nel vero senso della parola, un tappo di cerume dall'orecchio destro e dall'orecchio sinistro lo stesso, uno più piccolo però anche lì c'era, e come me l'ha tolto subito, no? Sono ritornato a sentire come si deve, e per quello che mi ha controllato anche naso, gola, eccetera, l'otorino ti controlla tutto, è colui che mi aveva detto hai una deviazione nasale, infatti mi ha detto problemi di respirazione, no, problemi di respirazione non ho mai avuto io sono sempre stato così, ho fatto la tretta, ma a 20 anni pensavo fosse se avevo problemi di respirazione, lui, va bene, dai, avanti qua. Però è così, perché ti sento, a parte la voce rauca, ti sento anche affannoso, ti sento anche con un po' di affanno, capito? Quindi io me la farei un controllo giusto per vedere se è tutto a posto, perché quando ti si abbassa la voce ti sento anche con un po' di affanno. Indubbiamente, perché la gola è secca, è asciutta e non c'è quella fluidità che ci deve essere, è ovvio. Comunque, infatti per quello che sto parlando poco anche al baracchino la sera, non lo ascolto, ma evito di entrare proprio per cercare di non appesantire ancora di più la situazione, proprio per quel motivo lì. Infatti sono assente e quando entro 10 minuti, adesso stasera mi sto trattenendo anche troppo, ma quando entro 10 minuti massimo poi chiudo, o meglio rimango di nuovo all'ascolto e non vado avanti, proprio per quel motivo. Avanti Luca. Ma infatti riposati la voce, giù, non ti conviene magari poi peggiori la cosa, dai. O bevete un goccio d'acqua così inumidisci le corde vocali, tutta la mala, un goccio d'acqua, lo so. ripeto, lo fa anche a me, no, questi li svegli, però è così, avanti, Cla, devi portare a Filippo. Ehi, allora, lascio.